America 24 di Mario Platero. Da Milano, Mario Platero, sono in Italia per qualche giorno, dunque trasmetto dai quartieri generali. C'è un anniversario, importante domani, che è l'anniversario di Newton, dell'assassinio di 20 bambini, di 6 adulti, di un giovane di 20 anni, Adam Lanza, che a un certo punto, in una mattina molto normale del mese di dicembre, poco prima di Natale, a un certo punto ha imbracciato un fucile, delle armi automatiche, e ha compiuto una strage. Lo ricorderete, ne abbiamo parlato a lungo alla radio, ne hanno parlato tutti i giornali italiani, le televisioni di tutto il mondo. Un'atmosfera drammatica, perché il tutto avveniva alla vigilia di Natale. I funerali sono avvenuti poco prima del Natale. We were fully aware of our tragedy, so we're trying to say to the world, please give us the chance to grow into that really happy, healthy place that. Ecco, un anno di distanza, i genitori di questi bambini hanno chiesto la privacy e tutti cercano di rispettarla. Resta il mistero di questo gesto, del gesto di questo ragazzo, Adam Lanza, che viveva con la madre. Prima di andare a compiere la strage aveva addirittura ucciso la madre, che voleva regalargli un fucile come regalo di Natale. Ecco, questo ci riporta al problema di cui abbiamo parlato l'altro giorno con Andrew Solomon, e cioè queste situazioni in cui ci sono delle famiglie che hanno dei figli difficili, dei figli problematici. Magari è più facile accorgersene se le differenze sono molto evidenti, può essere più difficile se lo sono di meno. Ma c'è, a un anno di distanza, una domanda di fondo che resta irrisolta, cioè qual è la componente psicologica di questo ragazzo? Qual è la situazione di questi genitori che hanno perso questi bambini? Come è possibile, possiamo chiederci, avere speranza da una parte e compassione nei confronti di chi ha compiuto questo crimine dall'altro? Siccome sono due ingredienti chiave del libro Lontano dall'albero di Andrew Solomon, e sono riuscito a parlare di nuovo con Andrew proprio per avere con lui un'interpretazione di quello che è successo a Sandy Hook. Dunque, con me ai microfoni di America 24, Andrew Solomon, l'autore del libro. Buongiorno, Andrew. Buongiorno, Mario. Eccoci, Andrew. So, we spoke the other day, abbiamo parlato l'altro giorno di famiglie, di bambini, di speranza, di compassione. We spoke about hope, we spoke about compassion. The question I had is, how can we consider hope for these families that have lost these children? How can we think about compassion for this boy who did the killing? Ecco, Andrew, come possiamo parlare di speranza per le famiglie e di compassione per l'assassino davanti a un caso di questo genere? Well, there's no way that hope or compassion will bring back the children who are killed or will mitigate. Ecco, Andrew dice, né la speranza né la compassione potranno riportare questi bambini alla vita o consolare i genitori di questi bambini. Però c'è una speranza, e la speranza deve essere di risvegliare le nostre coscienze per cercare di capire quanti e chi sono dei malati di mente, giovani o vecchi, che possono essere intorno a noi. Questo ragazzo è un ragazzo che aveva dei problemi e che ha avuto dei peggioramenti molto forti, ma resta il fatto che il suo crimine non potrà essere cancellato. Now, Andrew, why there was an acceleration of his issues? Qual era secondo te l'elemento che ha portato un'accelerazione dei suoi problemi? I think that he had Asperger's syndrome, a form of autism. Ecco, ci dice che questo ragazzo, Adam Lanza, aveva una forma di autismo e che i genitori si erano molto focalizzati su questo, ma c'erano anche altre cose che non funzionavano. Il problema era che questo ragazzo non aveva dato segni di violenza, non aveva dato alcuna idea che potesse esplodere nel modo in cui è esploso, fino al giorno in cui è appunto esploso. Però aveva dei problemi mentali, dei chiari problemi mentali. Se fosse stato curato prima con un approccio più vasto, forse questo crimine sarebbe stato evitato. How could you advise to pick up signals that make it possible to help someone in the way that we've seen in the examples of your book. Com'è possibile per i genitori accorgersi di qualche problema molto serio dei propri figli e aiutarli, come abbiamo visto è successo nel tuo libro? I think we should never assume that because we know what one problem our child has is we know all the problems he has. And ecco, Andrew mi spiega che appunto i genitori volevano aiutarlo, ma non avevano capito che c'erano dei forti disordini di personalità. E dunque il messaggio generale, che tra l'altro deriva per Andrew dal fatto di aver intervistato i genitori di coloro che hanno compiuto un altro massacro nella scuola di Columbine, e il messaggio della madre, e dice che lei non sapeva, questo è il dramma che la tortura, non sapeva che il figlio potesse commettere quello che ha commesso, e dice dunque non bisogna mai essere arroganti e pensare di sapere tutto, bisogna essere piuttosto umili, cercare di capire quali sono i bisogni, anche quelli più intimi, anche quelli che non si manifestano in modo diretto dei nostri bambini, dei nostri figli, e dunque un messaggio di amore, di vicinanza, direi un messaggio forte di nuovo in questa stagione natalizia. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sui tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Seguiteci su america24.com, su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, abbiamo parlato di nuovo di un problema relativo a dei bambini che ci hanno lasciato in un contesto tragico che non vorremmo vedere mai più. E dunque, di Michael Jackson, Heal the World. There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place was brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place, heal the world. Da Milano è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going.